Prima di guardare il cartellone, sì. In questi 17 anni sì. È cambiato qualcosa secondo te nello sviluppo di questo festival? Beh, perché domanda, tu l'hai seguito, vero? Domanda interessante. Un pochino. Beh, è cambiato, è in evoluzione, diciamo che cerca una sua traiettoria musicale, che poi va messa al plurale, traiettorie musicali. E io ho sempre cercato di invitare grandi nomi di livello internazionale e sempre qualche novità, qualche gruppo europeo o altro che magari non si era mai sentito da queste parti. Alcuni di questi sono diventati anche dei nomi importanti. Alcuni, mi ricordo una coppia quando chiamai il Vain Trio, un gruppo Vain Trio interessantissimo, sì. Trio classico, che cioè pianoforte, contrabbasso, batteria. Svizzeri, esatto. Ricordo bene. Fecero un concerto meraviglioso e poi dei signori, una coppia, mi dissero che erano andati in Svizzera per risentirli, perché gli erano piaciuti moltissimo. Fu una prima assoluta per l'Italia. Fu una prima assoluta, sì. Per l'Italia, sì. È una medaglia che va riconosciuta. Certo. Quindi piace. E anche il nostro pubblico, diciamo, che si rinnova naturalmente negli anni, però ha preso bene questa cosa, perché vedo che ci sono, c'è curiosità, certo, l'anno scorso sono fidelizzate, vengono c'era una bassista polacca, certo, ricordo King che ha Greek. Proposto della sì, fusion, sì. Sì, sì. Anche la fusion, certo. È una parte, sì, sì. A cui è legato, sì, sì. Il paradiso jazz, allora possiamo mettere il concerto di apertura, sì, per che non è un esordiente, no, in questo caso no, però stiamo parlando di un musicista molto dotato e talentuoso, è un grande pianista, di dire. Vuoi presentare tu l'apertura, Marco? Beh, l'apertura è lui, io l'avevo già invitato anni fa, diversi anni fa, venne con Birelli Lagren, il chitarrista, e si tratta di Antonio Farò è oggi un pianista accreditato a livello internazionale, molto interessante. Viene in formazione di trio con intanto alla batteria un grande Jeff Ballard, o Ballard, non so. Ballard, anch'io l'ho sempre chiamato Ballard, sì. E cioè il Balladur. E a contrabbasso a Mem Salem, che è io ho sentito delle cose sue come solista, forse non è conosciutissimo qua da noi, ma è un interessantissimo contrabbassista. E Farao si muove anche lui in un jazz moderno in particolare, dove si muove su magari anche standard classici, ma tutti rivisti, certo, a suo con modo, una sua interpretazione. Ed è un, sì. un musicista. Sì, è un gran tocco sulla tastiera. Tra gli italiani, sì. Veramente uno dei numeri uno. Ho avuto l'occasione di vederlo con un Freeman, sì. Al Festival dell'Aquila. E oltretutto ho visto che c'è la presenza di Kurt Rosenwinkel col suo trio all'interno del programma, un Roberto Gatto anche, sì. Con una serata di cui vorrei saperne di più, anzi vogliamo saperne di più. Jessa Billy. Con John DeLeo. Esatto, John DeLeo. E suoneranno assieme? No, sono due concerti. Tranne sorprese, perché John DeLeo e Roberto Gatto hanno avuto collaborazione. Ok. Con il Quinto Rigo, di cui John era il cantante, e Roberto Gatto. Niente, ho pensato di architettare questa serata doppia, una novità, cioè due concerti, due esibizioni nella stessa serata. Sorpresa. A sorpresa. Il primo esibirsi sarà appunto quel John DeLeo. Jessa Billy Lovers, cioè John insieme a altri quattro musicisti presenteranno, diciamo così, standard della storia del jazz, ma anche del rock e del rockabilly, appunto. Ah beh, già dal nome. Esattamente. E interpretati da John DeLeo, che per chi lo conosce sa, e chi non lo conosce lo saprà è una voce straordinaria, sì. Nel panorama italiano, ma lui personaggio italiano. Anche molto estroso, assolutamente, molto è un performer, così, esuberante, è un performer, fa cose sperimentali, fa cose tradizionali, ha una capacità vocale straordinaria, talento, sì. Cioè, specializzato in cover peraltro, perché ha fatto cose Mingus, Jimmy Hendrix, anche David Bowie. C'è una versione, Bowie, versione dei Quinto Rigo di Heroes, che per è me notevole, è di una, sì. Bellezza. Io l'ho sentito dal vivo un mese fa vicino a Reggio Emilia, con i Quinto Rigo, che hanno fatto una renta, sì. E John è un cantante che per molti aspetti mi ricorda quando si mette a usare una certa vocalità, Demetrio Stratos, sì, degli Aria, a questo imprinting, insomma. Lui lo considera un grande maestro, ovviamente. Beh, giusto. E niente, e quindi ci sarà questa proposta vocale. Credo che sia la prima volta che ospitiamo, sì, un questa, cantante. Infatti, ho detto la sorpresa sia per il doppio, sì, appuntamento, sì, che per la, sì, presenza di un cantante. Sì. E questo modo straordinario di ricerca, divertentissimo, ma anche molto interessante per la ricerca musicale e vocale, di John, di interpretare, che ne so, un brano che conosciamo perché lo faceva Frank Sinatra, ma in un modo. Questa è Fever, ad esempio. Fever, sì.